Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suardi in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Finalmente è venerdì, non è ancora tempo di palla spicchi, che già vi dico ufficialmente riprenderà il primo venerdì di settembre. Però Mario Boni è ormai un grande opinionista di sport, non solo di basket. Ecco perché oggi pomeriggio ci divertiamo tutti insieme. Ciao Mario. Buongiorno Carlo, buongiorno a voi. 800240024 è il numero verde e parleremo, già ve lo dico, un po' di tutto. A cominciare. Insomma, questa settimana ho ricevuto un sacco di messaggi, no? Non so se erano tutti dello stesso ascoltatore o erano davvero tanti ascoltatori diversi che mi dicevano: ma invece di parlare del Milan, dell'Inter, dici almeno due parole su LeBron James. Ieri le ho dette così en passant, condividendo abbastanza il pensiero di Michael Jordan. Anch'io. I califfi veri, le superstar vere, i dominatori veri non vanno a cercarsi la compagnia degli altri amichetti in altre squadre, piuttosto sono gli altri che devono venire a giocare da te. Esatto, concordo. Io le dichiarazioni di Michael Jordan mi vedono, che dire, se LeBron James avesse voluto ripercorrere le gesta di Michael, sarebbe dovuto rimanere in quel di Cleveland. Tanto è vero che i tifosi Cleveland hanno fatto questa petizione, raccogliere tutti gli indumenti comprati con l'effigie di LeBron, il numero di LeBron, e spedirli tutti in Miami perché vogliono dimenticarsi di LeBron James. Agli homeless di Miami. Agli homeless, bravo, esatto. Questo per dimostrare il disprezzo per la scelta di James. Beh, non è una brutta idea, è provocazione forte. D'altra parte non è piaciuto neanche all'America questo suo atteggiamento. Vado a giocare con gli altri due a Miami, tra l'altro società, un club che io non riesco ad apprezzare più di tanto, senza storia, senza passato, con poco pubblico. Oltretutto è stato fatto uno studio su quello che poteva valere economicamente il passaggio invece di LeBron James in quelli di New York, superava il miliardo di dollari. Il passaggio invece a Miami era quello dato meno favorevole perché poteva fruttare meno in termini di vantaggio economico. Se vuoi una sfida vera, allora prova a far vincere il titolo ai Knicks, che non lo vincono dagli anni 70. Ma poi, in ogni caso, sai, l'NBA è una macchina di promozione di se stessa micidiale, perché con questi tre, in ogni caso, Bosch, Wade e James, ci sarà una sfida, anche una curiosità di vedere come andrà a finire. Il mio parere è che la stagione regolare ci sta che sia un dominio di Miami, ma i playoff, quando il gioco si fa duro, sappiamo, no? Quindi, cara Silvia, non è vero che il basket non interessa a nessuno, perché insistete a parlare di basket, tanto sapete che gli ascolti li fate con il calcio, basta con questo sport che non interessa, non interesserà. Lei, Silvia, ha moltissimi ascoltatori invece, giuro che interessa. Ma chi è questa Silvia? Forse è rimasta delusa di qualche fidanzato cestista, magari. Forse, non lo so. Silvia, chi sei? 800240024, chiamaci. No, volevo tornare a questi personaggi, queste superstar presunte, Mario, che però non mi sembra non abbiano tanta personalità, non solo nel basket. Nel basket la superstar con grande personalità, quello che quando le cose vanno male si prende la squadra sulle spalle e la porta a vincere partite importanti, ancora Kobe Bryant. Esatto, no? Guarda, solo lui. Dopo questa scelta di James, il personaggio più emblematico e significativo nell'NBA, anche a livello mondiale, lo è Kobe Bryant. Come nel calcio, adesso tu pensa che nel calcio Maradona, pur non giocando, è ancora il vero personaggio di questi mondiali appena trascorsi. No? La gente, noi italiani, un po' tutti amano Diego Armando Maradona, ed è stato il fallimento di Messi che invece è stato il... Mi sembra che valga un po' per Messi e per queste superstar spente dei mondiali di calcio il discorso di LeBron James, no? Bravissimi quando la squadra è forte, quando la squadra sta giocando bene, però gli manca la faccia. Cosa dici? Gli manca quella personalità, ma non solo a Messi, a tutti gli altri che hanno steccato, Cristiano Ronaldo, eccetera. Ma l'abbiamo visto anche con l'Inter. L'Inter è tornata a vincere quando il comandante Mu, personaggio che io chiamo il comandante perché di fatto regalare all'Inter dopo 45 anni la Coppa dei Campioni, la chiamo ancora Coppa dei Campioni perché sono italiano, mi piace dire in termini italiano, e dimostrando questa faccia tosta. Ma quanto rimpiangiamo le dichiarazioni di Mourinho? Queste dichiarazioni ancelottiane anche da parte di Benitez, no? Che è simpatico questo viso pacioso, però di fatto sono già depresso io. Sì, cioè, già il campionato di calcio come di basket, perché secondo me Siena e Inter, Montepaschi, Siena e Inter viaggiano un po' sullo stesso livello. Però attenzione adesso a Siena, cosa? A Siena ma rifà la squadra come l'Inter. L'Inter sta rifacendo la squadra, vende Barotelli, vende Maicon, prende giocatori nuovi, ha cambiato allenatore ed è inattaccabile. Siena, vedrai, è inattaccabile. Siena, guarda che siamo su una grande trade, perché McIntyre se n'è andato, Sator se n'è andato, Eze se n'è andato, Hawkins difficilmente rinnoverà in quel di Siena, quindi dovrà essere bravo presidente Minucci e Pianigiani a rinnovare la squadra, quindi vedremo. Io credo che ci possa essere un campionato molto più interessante. E quello di calcio invece? Quello del calcio io credo che l'Inter sia parte favorita. La Juve ha speso tanto, ma ha speso con poca qualità. Il Milan è in attesa della scadenza dei contratti di ben 11 giocatori che andranno a termine nel 2011. Intanto li sta spalmando, però, quindi già 2012. Sì, certo, perché Zambrotta l'ha rinnovato e l'ha spalmato, perché sta cercando anche di spendere Oddo, meno. Anche Oddo. Anche Girondocomio. E quindi insomma questo è sta. L'Inter è ancora un passo avanti a tutti per adesso. C'è un ascoltatore che scrive, adesso te lo prendo perché ce ne sono molti già di messaggi. No, non lo trovo più, te lo leggo dopo. 800240024 è il numero verde, scrive un messaggio a te. Di insulti, chiaramente. No, non era di insulti, anzi era positivo. Quelli di insulti te li leggo tutti, sta tranquillo. Senti, ma invece Balotelli che va via? Beh, è inevitabile, un grande giocatore, non un campione. A volte si abusa col termine di campione, ma cos'è un campione? Allora, se io dovessi dare il termine di Maradona o Zidane, forse dovremmo usare il termine fuori classe. Ma campione, Balotelli ha fatto bene, ma ancora non ha dimostrato nulla, e i suoi atteggiamenti hanno fatto sì che la squadra non sentisse Balotelli parte del gruppo, e il comandante Mu l'anno scorso ha fatto vedere che si può vincere anche senza Balotelli. Finalmente un po' di basket. Silvia, vieni a vederlo con me che ti converti. Cominciamo a chiedere al grande Mario Boni cosa ne pensa delle squadre di A1 che si stanno costruendo. Mauro D'Alegnano. Guarda, devo dire, cari, complimenti a Brindisi. Brindisi sta facendo una squadra che può far sognare i suoi tifosi. Ha firmato Chris Monroe, che abbiamo visto in quel di Milano al termine della stagione. Sta cercando di Awara. Ci ricordiamo l'ala piccola numero 4 che ha giocato a Fortitudo qualche anno fa, ed ha giocato gli ultimi anni a Miami, ha giocato nell'NBA, e quindi è una squadra che può essere un fattore importante. Anche Bobby Dixon, ecco il nome, ecco perché tergiversavo, no? Non ricordavo Bobby Dixon, quindi da Benetton, quindi è una squadra molto pericolosa. E voglio vedere Milano può essere l'anno della svolta importante per contrastare Siena nello scudetto, e Roma invece, che è schiava degli contratti fatti l'anno precedente ed è praticamente immobile, se non la firma di oggi, mi sembra, di Traoré, un lungo francese che ha giocato con Tanjevic e Villeurbanne qualche anno fa, vedi come sono preparato. Però Roma è schiava dei propri contratti. Anche un po' Milano, anche un po' Milano. Milano è anche lì, buttare via soldi, budget molto alti. Dovrebbe come la Juventus. Come la Juventus. La Juventus ha speso tanto per comprare giocatori che non ha fatto differenza. Questo è un po' anche quest'anno la Juve del Neri col 4-4-2 ha voluto firmare giocatori come per esempio Pepe o Martinez, giocatori che hanno pagato più di 12 milioni di euro e il cui rendimento è tutto a verificare ad alto livello. Certo. 800240024, Alberto della provincia di Pisa, subito dopo il traffico. Intanto oggi personaggio del giorno è Mario Boni certamente, ma è Silvia, perché tutti gli ascoltatori adesso rispondono a Silvia, che io Silvia, spero ma io so già venga motivo. Al telefono 800240024, Silvia ti aspetto. Era fidanzata, è stata mollata, è fidanzato cestista, e questo è il motivo. C'è un messaggio di Omar da Bologna. Silvia schiava del business, viva gli sport minori che possono definirsi ancora tali, non prodotto dei media. A Silvia si aggiunge Alfio da Jesolo. Voglio dirti che Silvia ha molta ragione in ciò che ha detto, bravo e complimenti. Ragazzi, però aprite un po' la mente, non ancoratevi sempre alla Moviola, alla Juventus, al calcio mercato. Parliamo un po' di tutto e un po' d'altro. Tra poco anche di Tour de France, argomento che mi intriga moltissimo, nonostante questo sia il tour peggiore che io ricordi, e ormai qualche annetto ce l'ho sulle spalle. Però una corsa così piatta, brutta e infarcita di episodi di finto fair play di plastica, è una cosa che mi ha un po' disgustato, però sarà divertente parlarne anche oggi. Intanto Alberto, provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno. Senta, visto che avete parlato di campioni supposti come sì. LeBron James, volevo sapere la vostra opinione su chi è il vero erede di un eroe della pallacanestro come Larry Bird. Sì. Bella domanda. Beh, mi aspettavo un vero eroe quale Michael Jordan. Larry Bird l'abbiamo quasi messo nel dimenticatoio, no? Però Jordan ha detto: io non andavo mica a convincere Magic Johnson e Larry Bird a venire a giocare con me, ero troppo impegnato a batterli. Sto pensando, sfide bellissime, no? Quella di Michael Jordan, l'inizio di Michael Jordan nell'NBA e la fine dei grandi campioni quali Magic Johnson e Larry Bird. Il bianco che ha fatto sognare gli ultimi 10 anni è Dirk Nowitzki, quello di Dallas, no? Quello che più vicino. Più vicino, perché grande tiratore, poco atletico, però insomma credo che Larry Bird è riuscito a trascinare il Boston al titolo, cosa che Nowitzki non è riuscito a fare. Sì, ma no, sei sempre lì, però bravissimi, grandi giocatori ci sono, però i giocatori che fanno la differenza, che hanno la faccia giusta. Immaginati Messi con la faccia di Zidane, perché è quello che manca. Sai, Beppe Viola parlava del famoso ufficio facce, insomma glielo leggi un po'. La faccia è determinante. Io quando sono a fare le telecronache vedo già l'aspetto dell'atteggiamento corporale, io chiamo l'atteggiamento corporale quando si affronta una partita o anche in determinati momenti il viso com'è. Messi, hai detto bene tu, era un pulcino bagnato, no? Non aveva quello sguardo cattivo, sportivamente parlando, che ha nel Barcellona per esempio. Pieragusto Stagi dal Tour. Ciao Pieragusto. Ciao Carlo. E ieri quando ho visto quei due arrivare sul Tourmalet a braccetto ti ho pensato, e ne avevamo parlato tutto il pomeriggio. Sono un po' stufo, voglio vedere la lotta. Anche in bicicletta. Sportiva naturalmente. No, la lotta è stata liberarli. Non volevano più togliersi da quell'imbraccio, da quell'abbraccio infinito. È stato veramente... un minuetto non piacevolissimo, adesso sembra ingiusto perché comunque fanno una fatica in ogni caso immane, perché è uno sport molto selettivo e molto duro, e 3 settimane che pedalano e ne hanno fatta di strada, però abbiamo visto e assistito a spettacoli diversi. Non più tardi di qualche mese fa, un mese e mezzo fa, il Giro d'Italia è stato di tutt'altra natura, di tutt'altro spessore, è stato molto più divertente. Poi magari non c'era Armstrong, c'era Cadeleva, mancavano giusto Armstrong e Contador in fondo al Giro d'Italia, no, ma anche tecnicamente è stata una grande corsa. Forse mancava anche Andy Schleck e Contador, che anche Schleck è sicuramente un talento in via di formazione, non per niente da 3 anni consecutivi vince la maglia bianca di Milano. Però, giovane, però resta il fatto, Mario credo sia d'accordo, che anche nel ciclismo questi episodi, tutta quella polemica sulla catena, poi scusa, poi non me ne sono d'accordo. Mi piace, io sono d'accordo, cioè, l'abbraccio finale, il Tour de France mi ha deluso quest'anno, mi piace più il combattimento, io sono un combattente e mi piace... Tu cosa ne pensi di questa storia del fair play? Anche lì è come nel calcio che buttano palla fuori quando appena uno si tocca, gli entra un moscerino nell'occhio. Lo sport di per sé è come se fosse un'arena dove uno entra e deve cercare di vincere. La catena è saltata, ma è come se Rossi cade con la moto e tutti si fermano perché il fair play deve dire bisogna arrivare tutti insieme. Non mi piace, bisogna giocare, e io mi incazzerei se fossi il direttore di corsa, perché c'è un direttore di corsa al Tour che fa le regole, e quindi per la bellezza dello sport bisogna combattere per vincere. Anche contro questi imprevisti. Pieragusto, adesso è finita, Oggi c'è una tappa piatta per velocisti. C'è nato una fuga e la corsa è partita da poco. Hanno coperto 56 chilometri, ne mancano ancora 141 al traguardo. Ci sono 4 uomini al comando. Uno è un ragazzo talentuoso italiano, molto giovane, si chiama Daniel Oss, trentino. Un ragazzo, segnatevi questo nome, perché è un ragazzo che va molto bene nelle classiche del nord e diventerà uno degli elementi più interessanti del ciclismo italiano. È in fuga insieme a Brechel, Pinot e Vanegraard. Il gruppo della maglia gialla Contador è a 3:20, diciamo che oggi dovrebbero amministrare le squadre dei velocisti, e poi vediamo se sarà volata, se sarà duello tra Mark Cavendish e Petacchi, un Petacchi che sappiamo un po' livido dopo così l'avviso di garanzia che l'ha raggiunto anche in Francia e che lo costringe mercoledì prossimo ad andare a Padova davanti al PM Roberti, che gli chiederà lumi su alcune situazioni poco chiare del passato, ma che comunque riguardano il presente. Ho fatto una domanda: rischia una squalifica importante oppure ha tutte le possibilità per uscire indenne da questa situazione? Sai, guarda, in realtà bisognerebbe conoscere e avere in mano il carteggio. Il dossier ce l'ha anche in mano la procura antidoping del CONI, quindi probabilmente Petacchi dovrà essere anche sarà anche convocato da Ettore Torri. Io mi auguro che non c'è via di mezzo: o Petacchi risponderà e dirà io con questo giro non c'entro nulla, però dipende da che cosa hanno in mano, se hanno in mano intercettazioni, se hanno intercettazioni ambientali, se hanno delle testimonianze di corridori pentiti che lo coinvolgono, oppure lui dice è talmente convincente a dire non c'entra assolutamente niente, quindi in quel caso non rischia nulla, gli stringeranno la mano, gli chiederanno scusa, gli offriranno un caffè, se ne torna a casa. Se così non fosse, la situazione è molto molto grave, soprattutto perché ha 36 anni, ma in ogni caso perché è un caso di recidivo, perché lui è già stato squalificato per un banalissimo uso di Ventolin, perché lui ha un certificato da anni dato dall'Unione Ciclistica Internazionale che è asma da sforzo, però gli costò un anno di squalifica. Questo, questo è un po' più grave, però sono prodotti che non sono il Ventolin, non sono esatto, cose così però banali, si va a sommare, quindi si parla addirittura di radiazione. Cioè, quindi, senti, no. posso dirti ancora una cosa, Pier Augusto, sempre su, tornando al tour e su un argomento decisamente più leggero. Ieri facevo fatica, non so tu Mario, a concentrarmi su questo pseudo duello che poi non è stato tale, perché è stato un tandem, no, tra Contador e Schleck. Ebbene, facevo fatica a concentrarmi sul tandem perché il pubblico a bordo strada, tra le pecore, quelli con il costume di Borat, l'uomo tutto vestito di giallo da robot giallo, il bordo strada del Tour de France meriterebbe, beh, un libro è banale, una trasmissione si può fare a patto di trovare quegli ospiti lì, comprese le pecore, insomma. Merita però una citazione il pubblico a bordo strada del tour, soprattutto in questa occasione, perché io così strambo non me lo ricordo, tra persone in mutande, gente in bikini con due gradi sopra lo zero. Sì, ecco, forse con i due gradi sopra lo zero, no, per quello è il pubblico del tour, è un pubblico così, anche perché ormai è una tradizione, il tour è un evento talmente mediatico che attira tantissimi appassionati della bicicletta che decidono ogni anno di venire a fare proprio le vacanze seguendo giorno per giorno le tappe del tour, quindi c'è proprio un movimento nel movimento. Sì, però vestiti così è tanto. Sono i ragazzi, ragazzi che comunque hanno finito, ci hanno dato dentro con la grappa, hanno finito di lavorare, ci danno, quello l'hai detto, ma questo succede anche a Giro d'Italia, lo sai benissimo, perché la cosa incredibile è che veramente questi i corridori ci pensano o non ci pensano, quando offrono uno spettacolo mediocre dovrebbero pensare che ci sono veramente degli appassionati malatissimi di bicicletta, sì, che stanno lì magari dal giorno prima per conquistare la posizione migliore, per mettere la tenda, per mettere il camper, e cominciano a bere, logicamente, bere, cantare, mangiare, divertirsi, per poi vederli passare esattamente 30 secondi se sei sul Tourmalet, sì, e 5 se sei a bordo strada, perché sì, vedi sfrecciare. La libidine è quella proprio di corrergli a fianco, di avere un po' di visibilità, di far vedere quanto sei stupido, di quanto sei originale, di quanto sei fuori di melone, però fa parte del colore del tour, certo, del giro, certo, del ciclismo. Non lo dicevi con un'accezione spregiativa, anzi mi sono molto simpatico, mi sono divertito un sacco ieri a vedere, non le hanno inquadrate, ma ti garantisco in tappe anche un pochino più calde così, ma ragazze totalmente come mamma le ha fatte. Ah, però. Sì, è lo sport, organizziamo la vacanza al tour, Mario. Ma ti garantisco un paio di corridori, un paio di corridoi si sono anche fermati. Lì la bellezza, non farò mai nomi di questi corridoi. Beh, sempre il ciclismo ha sempre spostato tantissimi tifosi, tantissima gente appassionata di ciclismo, perché è veramente nazionale popolare. Sì, no, è vero, l'unico grande sport nazionale. Sì. Cara Silvia, non so se ti piace il ciclismo, c'è anche un Massimiliano. Silvia, occhio che hai un invito. Se vieni a Treviso ti pago il biglietto al Palaverde e poi anche la cena, scrive Massimiliano. Poi Silvia riprende, la butta banalmente sui numeri, non mi cascare sui numeri. La finale mondiale di calcio la vedono 2 miliardi di persone, la finale di basket arriva a 100.000. Vogliamo fare i numeri della finale, dell'ultima finale NBA nel mondo? Esatto, è perché da noi il calcio, ma in America, che poi è chiamato soccer, è il basket che domina, così come il baseball, no? Il football americano, che da noi non è considerato. Insomma, sono tanti sport, è chiaro che è il calcio. Bisogna assaggiare un po' tutto, secondo me. Chi è appassionato di sport deve provare, deve abituarsi ad assaggiare un po' tutto. Poi non gli piace, mangia un'altra cosa, no? Però non bisogna escludere e concentrarsi sempre e solo sulla calcio. È vero che in Italia però chi sposta economicamente grandi cifre, certo, è il calcio, però ci sono tanti appassionati anche di altri sport. Grazie Pier Augusto, ti aspetto qui quando torni da Parigi. Sì, la settimana prossima. Va bene, va bene, volentierissimo. Un abbraccio a tutti e viva lo sport. Grazie Pier Augusto Stagi. Io oltre a molti ascoltatori, qui con me Mario Boni sempre, ho anche tantissimi messaggi. Lucia, bellissimo il basket, io ho giocato sia a basket che a calcio, concordo sul fatto di parlare di altri sport, se lo si facesse più spesso forse il mondo del calcio si ridimensionerebbe un po', ma non è questione di ridimensionamento, è questione, come dicevo prima, secondo me della necessità e anche della voglia di assaggiare un po' di tutto se vogliamo parlare di sport. Se no ricominciamo, e la moviola, mamma mia, vuoi la moviola, vuoi la moviola in campo? Vuoi il giudice di porta? Ieri un miliardo di ascoltatori su questo, poi mi danno del retrogrado. No, ma tu sei vecchio, devi andare in pensione. La moviola in campo non mi piace, cosa volete dire? Se volete vi dico che mi piace, ma non è vero. Vabbè, comunque sia, non è che puoi fare qui un mese a parlare della moviola in campo, 5 arbitri, 4. Silvia vorrebbe questo. Silvia... Sì, la mia opinione l'ho data. Mauro, buongiorno. Buongiorno, volevo sapere cosa ne pensate di cosa? Un calcio dove si segna un po' di più, magari, sì, non so, ampliando le porte o giocando in 10, e un basket dove si segna un po' di meno. Come un po' di meno? Un po' di meno, vuoi anche... Cioè, perché di meno? Tirare un po' più da lontano, così, renderlo un po' più spettacolare. Beh, tu sai che quest'anno la linea da tre punti verrà allontanata di 50 centimetri, da 6,25 a 6,75, quindi cambierà anche un po' il modo di giocare, i ruoli diventeranno un po' più specifici, nel senso il gioco dentro l'area ritornerà a essere determinante. Per quanto riguarda il calcio, sai, io credo molto alla mentalità. In Italia è una mentalità molto sulla difensiva, tanto è vero che si parlava dell'Inter, come è possibile che la Roma avesse recuperato 14 punti. Io dico, se l'Inter avesse giocato nel campionato inglese, molte squadre che venivano a San Siro avrebbero giocato in maniera aperta per giocare, per cercare di vincere. In Italia la prima regola è non prenderle. E una cosa che disse Vialli, assolutamente giusta, è che in Italia, in Inghilterra, il gol è una gioia. In Italia il gol è un sollievo. E questa è la grande diversità di mentalità tra due nazioni. Tu sai invece cosa ha detto Crespo? Non te lo dico, no, basta, sono stufo di questa storia. Sì, no, ho capito, me l'hai già detto, sì. E... Vittorio, Siracusa, no, le porte, vabbè, adesso vale tutto, no? Siamo al 23 di luglio, anche le porte larghe nel basket si segna di meno. Tipo il calcio in costume, sì, fiorentino, bravo, che c'è una porta che dura calcio tutto. Calcio in costume fiorentino. sì, la caccia. Vittorio. Buongiorno, buongiorno pomeriggio a tutti voi. Dica. Io intervengo per salutare, ringraziarvi e ringraziare soprattutto Mario Boni. Non ho mai seguito il basket a livello, come dire, di movimento. Mi sono sempre appassionato ai personaggi, ero tifosissimo di Roberto Premier, ad esempio, un personaggio, certo, epico. E sono stato tifosissimo di Mario Boni, cannoniere meraviglioso, di Charles, grazie, Barkley nell'NBA. E mi chiedevo, mi sto riappassionando al basket vedendo Mario Boni con le sue disamine sempre puntuali, ironiche su Sky, e anche la presenza mediatica di un personaggio come Mario Boni ritengo sia importante per rilanciare il movimento cestistico italiano. E non l'ho pagato, non t'ho pagato, di che non t'ho pagato. No, assolutamente. Ah, dai, il movimento cestistico italiano che negli ultimi anni ha avuto carenza anche di personaggi. Vi ringrazio e vi ascolto. Tuo cugino questo qua. Sì, questo l'ho pagato. È mio cugino di primo grado che è sotto la sedia di Sole 24 Ore col cellulare. No, però insomma lo sappiamo tutti. Peccato che non dici mai quello che pensi. No, a volte in tutti gli sport si ha sempre la paura di prendere una parte, di dire, perché si ha paura di urtare certi interessi. Invece credo che sia piacevole per gli ascoltatori, i telespettatori, no? Sentire un parere e poi avere la possibilità di non essere d'accordo con il parere di una persona. Sì. Però, ecco, meno male, io cerco sempre di schierarmi, sempre nel rispetto delle parti, nel rispetto di chi fa il proprio lavoro. Eh sì, ma è così che si fa. Cioè, siamo tutti d'accordo, c'hanno noi due palle, diciamo. Dunque, c'è un ascoltatore, Giorgio, che mi dice: martedì dicevi l'esatto opposto, e cioè che non si rompe la regola aurea del rispetto nei confronti dell'avversario nel ciclismo. Io giuro che parole come regola aurea del rispetto non l'ho mai pronunciate, e che il paragone con le moto è una cosa ben diversa. Quindi volta gabbana mi lascia, e non è l'unico, mi lasciano sempre perplesso, scrive Giorgio. Io non ho mai detto che non si rompe la regola aurea del rispetto, io ho semplicemente detto che non mi è piaciuto. Ma... non tanto l'attacco di Contador, perché questo uno sceglie quello che vuole, no? Se decide di far battaglia, fa battaglia, però a quel punto regge fino in fondo questa sua scelta. Non mi è piaciuto tutto quello che è successo dopo e non me ne sono accorto, e poi gli chiedo scusa ed è mio amico, torniamo amici, facciamo la pace. Ma no, questo non mi è piaciuto. Ma poi, proprio parlando di rispetto, e rispetto anche della gente che sta a casa, che guarda la televisione, il rispetto di una competizione sana che deve essere combattuto sul terreno di ogni sport. Certo, agonismo. Nel basket, ad esempio, nel basket, se l'avversario resta a terra, tu vai di là, l'arbitro non ferma gioco, vai di là, segni. Non esiste che buttata la palla in fallo laterale, come nel calcio. Uno si fa male in attacco perché prende un colpo c'è questa sensazione che tutti debbono buttare fuori la palla, ma invece no, c'è già un arbitro, le regole sono quelle, e se una squadra può attaccare, deve attaccare. Quando finirà l'azione si prenderanno i provvedimenti. Io sto leggendo un fiorire di messaggi indirizzati a Silvia, che se, scrive un altro ascoltatore, se seguissi la pallacanestro scopriresti che i cestisti sono molto più belli e intelligenti dei giocatori di calcio. Dennis, ex cestista, che si propone per la partita e cena e tentativo di conversione alla causa. Grandissimo. Però non sappiamo come sia questa Silvia. Non lo sappiamo, ma è bello così. Matteo, Bologna, buongiorno. Ah, buongiorno, no, io volevo fare solo una considerazione, a parte i complimenti doverosi a voi, insomma. Più che altro mi riferivo alle telefonate di alcuni ascoltatori prima che definivano, non so, LeBron James presunto campione. Ecco, volevo solo dire che sicuramente ha fatto una scelta magari criticabile e non romantica, diciamo, però presunto campione mi sembra eccessivo. Ecco, secondo me, se non è un campione lui, comunque non ce ne sono attualmente, ecco, questo voglio dire. Sì. No, poi, però sai, Matteo, sì. per me una considerazione, sai, il campione quando LeBron James è un grandissimo atleta, è bellissimo, pagherei il biglietto per andarlo a vedere, però è campione colui il quale attraverso la sua forza riesce a essere produttivo per la propria squadra. E attualmente LeBron James, anche se è giovane, dell'85, soprattutto dicembre 84, se non erro, ancora non ha fatto vincere nulla alla propria squadra. Sono d'accordo da una parte, sicuramente sono d'accordo. Ecco, dall'altra parte, appunto, come giustamente dicevi te, a un'età un po' anche come Messi, se andiamo a vedere, mi dà l'idea che sia indiscutibile, ecco, vista anche l'età che ha. Non stiamo dicendo che non siano dei grandi giocatori, stiamo però dicendo che questa scelta dimostra, secondo me, una personalità non da superstar assoluta. Io ho sempre detto che la differenza tra Messi e Maradona, ad esempio, non sta nei colpi, perché Messi ha i colpi di Maradona, no? Sta in questa garra, come dicono i sudamericani, in questa capacità di prendere la squadra per mano e portarla fuori dal buco nel momento difficile. Qualità di leadership, no? Totale, assoluta, quella che ad esempio nel basket adesso ha solo secondo me Kobe Bryant in questo momento. Gioco forza, quando vinci così tanti titoli, 5 titoli, ti viene riconosciuto quel ruolo di guida suprema e ti viene accettato da te anche gli errori, ecco. Sì. Lorenzo, provincia di Ancona. Salve, innanzitutto grazie, perché dopo i mondiali si torna a parlare di basket su Radio 24. Silvia ci lascia, lo facciamo, anche di basket, di ciclismo, di tutto. Dica. Io volevo fare due osservazioni riguardo al mercato NBA. Sì. Volevo sapere se eravate d'accordo. Una riguarda il New York Knicks, che secondo me sono la squadra che è uscita proprio male, peggio di tutti. Da d'accordo, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Perché mi dispiace per Mike, ma due anni che lui ha sofferto a questo progetto di arrivare a questo mercato proprio a Amari Stoudemire, secondo me non vale quei soldi che gli hanno dato. 90... Non è un playmaker che gioca pick and roll e lo può, cioè secondo me. Mi piace per Mike, ma o arriva Chris Paul o questi New York, non so. Mi piace anche per il Gallo, soprattutto. Secondo, penso che nessuno l'ha messo, lo dice, si parla solo di Miami, ma i Los Angeles Lakers hanno rifirmato Phil Jackson, rifirmato Fisher, preso Matt Barnes perché sanno che adesso oltre a Test serve qualche altro difensore, e con un Kobe così secondo me ancora sono esclusivamente la squadra da battere. Anche sì, secondo me. Grazie. No, sono d'accordo con questo ascoltatore che capisce, si vede che capisce di basket. Si è detto che Miami probabilmente farà una stagione regolare super, però la mia favorita è sicuramente i Lakers e Boston, non dimentichiamoci di Boston che è pur sempre una grande squadra. Knicks, tristezza assoluta. Tornando ai Knicks, hanno firmato per quasi 100 milioni di dollari in 5 anni, 99-8 mi sembra, a Amar'e Stoudemire, ha analizzato giustamente, se non arriva Chris Paul per me è ancora una tragedia New York, ma anche un grande fallimento di Mike D'Antoni. E qui proprio sul caso Knicks, com'è diverso il mondo tra l'Europa, l'Italia e com'è diverso invece in America. Pensate, New York, il monte stipendi più alto di tutti, ha fatto una stagione orrenda, eppure Mike D'Antoni non è stato cacciato, ha giocato male. Io credo che con una squadra così poteva fare sicuramente qualcosa di meglio. Dunque, dove siamo rimasti? Giacomo, provincia di Treviso, e poi traffico. Giacomo, buongiorno. Dunque, volevo fare i complimenti a Mario Boni, perché da quando io sono abbonato a Tele Più da quasi 20 anni, che ovviamente attuale Sky, e non c'era mai stato, credo, a Sky un cronista al di sopra delle parti come Mario Boni, ma soprattutto con una intelligenza cestistica. Non sei pagato. Altro tuo cugino. Sì, altro mio cugino che è sotto qui alla sede, che sta telefonando con lo stesso cellulare mio. Uno di Siracusa e l'altro di Treviso. Mario Boni, anche se quando veniva a Treviso magari qualche parolaccia te l'ho detta, ma di questo me ne scuso. No, volevo dire che la forma, credo, quest'anno con Siena sicuramente si sia accorciata rispetto alle altre squadre, e avrà sicuramente dei problemi, credo, non tanto per sostituire McIntyre, ma credo Sato sia un giocatore che era diventato assolutamente determinante per loro, soprattutto nelle ultime due stagioni. E poi volevo dire che ho la sensazione che a Treviso quest'anno credo stia nascendo una gran bella squadra, magari dopo il campo ci smentirà, ma credo che quest'anno gli uomini giusti siano stati messi al posto giusto sicuramente. Vi ascolto e vi ringrazio ancora. Grazie Giacomo. Dimenticavo, Treviso ha firmato, era sotto Davis Smith da un po' di tempo, ha firmato 2 anni, un ottimo giocatore, sembrava rimanesse in Turchia mentre invece è stato firmato, quindi un'ottima presa. Credo che possa lavorare in maniera interessante, non terrà Bielitha, che è un giocatore che era sotto contratto NBA Escape, probabilmente per andare all'Olympiacos, voluto fortemente da Ivkovic per 1 milione di euro. La Benetton è sempre molto brava a fare questi affari. E poi ha detto bene ancora sul fatto che la perdita di McIntyre è tutto sommato rimediabile. Sato, secondo me, è una perdita decisiva. Però per chi fa giornalismo, queste assenze per Siena sono determinanti per ridare interesse al campionato. Sì, poi vediamo se glielo dà davvero. Perché Siena, in ogni caso, è bravissima nello scegliere i giocatori. Minucci è un diavolo in questo, riesce sempre a trovare i giusti giocatori, i giusti rapporti, al giusto prezzo. È perché non possiamo dimenticarci la bravura della dirigenza senese insieme a Pianigiani, è quella di aver preso giocatori che erano a disposizione di tutti, McIntyre, Sato che veniva da Iesi, Storu che era a Cantù, così come Kaukenas da Cantù, così come Thornton, così, insomma è piena, no, la storia, competenza, fantasia, intuizione, Eze che era a Reggio Calabria, bravissimi, quindi insomma quattro scudetti non gliela regalava dati nessuno, se li sono meritati. Andrea, ma cos'ha Messi come Maradona? Mai visto giocare Maradona? Caro Andrea, l'ho visto un po' di volte. Pensi che quando Maradona ero ragazzino, veniva nel nord Italia, lo seguivo in qualunque stadio, pur non essendo tifoso del Napoli, però volevo veder giocare Maradona, fosse a Genova, fosse a Bologna, Diego fosse Armando Maradona. Berto da Bologna, buongiorno. Ah, buongiorno. Ah, buongiorno. Dica. Niente, volevo intervenire dicendo questo. La differenza, secondo me, tra calcio e basket, per il calcio è più popolare solamente perché è uno sport più semplice. Cioè, lei prenda una vecchietta che durante tutto l'anno, tra parentesi, certo, odia il calcio e litiga col marito, che si mette davanti alla TV a guardare i mondiali e che sbava ardentemente, gli spieghi il fuorigioco e più o meno il resto lo capisce. Metta una nonnina di 70 anni a guardare il basket, è solo però, per quello che è più popolare, perché portala al palazzetto. Ma no, ma porta al palazzetto con insomma, sì. Secondo me bisogna provare a guardarlo il basket dal vivo, no? Però la considerazione sì, abbastanza, sì, ma è abbastanza molto più immediato, è il nostro sport da piccolino, il calcio al pallone si dà la grande fortuna del calcio, è per questo che dico mamma Viola De Che. La grande fortuna del calcio è quello di essere uno sport intuitivo, istintivo, animale. Metti due maglioni per terra e una palla però... e giochi. E... è chiaro, no? È la bellezza del calcio questo. Il fatto di essere lo sport più immediato che c'è. Noi cresciamo con un pallone tra i piedi, tutti abbiamo cercato, abbiamo sognato di emulare un nostro campione, no? Che avevamo appeso al muro. E poi il basket è diverso, è meno immediato, questo è un dato di fatto. Certo. E se Silvia fosse una cozza, meglio non rischiare, creda ciò che vuole, scrive Luca. Certo, Luca, la salunga. Fabio, provincia di Varese. Buongiorno, grazie dell'opportunità. A lei. Io sono un tifoso di 47 anni della pallacanestro varese, quindi ho fatto, ahimè, in tempo a vedere i fasti della nostra squadra di basket. Sì. Volevo fare una considerazione e porre due domande a voi. Innanzitutto, grande Mario Bocchi, perché non è obiettivo ma è vero quando commenta, e questo è quello che ha bisogno la gente. Grazie. Seconda cosa, una vostra considerazione su come si sta comportando Varese. Varese ha rifondato una squadra, c'è il grande Cecco Vescovi che la sta dirigendo e sta facendo una nuova fondazione, una nuova rifondazione di una squadra basata sulla partecipazione popolare. Ho solo un dubbio io sul quale volevo il vostro parere. Charlie Recalcati ha contribuito a fare la storia di Varese con la stella del decimo scudetto, ma a me le minestre riscaldate non sono mai piaciute. E la seconda cosa che volevo dirvi, ultima, è che in Italia non si ha il coraggio di far giocare i giovani, poi corriamo dietro alle squadre della ex Jugoslavia perché vincono gli europei con i giocatori di 20 anni. E vi ascolto con piacere, grazie. Anche noi l'abbiamo ascoltata con piacere. Charlie Recalcati mi sembra comunque un grande allenatore per Varese, no? Ma Charlie, insomma, un allenatore che vince 3 scudetti in 3 città diverse, Bologna, Varese e Siena, quindi è tutto rispetto. Credo che abbia ancora tanto da dare al basket. Effettivamente, ma dici non a Varese? No, il avrà delle responsabilità pesanti, perché quello che ha detto il nostro ascoltatore lo penseranno in tanti. Cecco Vescovi è una garanzia, coadiuvato da Max Ferraiuolo, ci tengo a ricordarlo perché lo ricordo piacevolmente. Max, hanno fatto una buona squadra, anche la firma di Kangur, che abbiamo visto il finale stagione in quel della via Bologna, è un giocatore che mette la garra, no? La cattiveria agonistica, insomma, un ottimo giocatore. Ha firmato anche Righetti un anno da desaparecido in quel di Bologna, e tiene Giovi Thomas. Insomma, Recalcati ha la piacevolezza di tornare in un palcoscenico importante come quello di Varese, però avrà da superare tanti scetticismi. Dunque, adesso, caro Mario, mentre leggo questo messaggio, Crippa, Boni, Nicolai, Johnson, Binion, avremmo vinto lo scudetto? Ancora Francesco lo scrive questo. Forse di Pistoia questo, perché sì, era il termine quando c'era ancora la Toscana in grande, non c'erano 4-5 derby, quindi sì. I derby di Pistoia e Montecatini che hanno illuminato quella regione. Ne ha giocato qualcuno, mi sembra. Qualcheduno. Due o tre. Esatto. Adesso però, non so se sei pronto, parliamo di motori. Sport e motori. E sarà un grande weekend motoristico, perché si corre la Formula 1 a Hockenheim, si corre il Moto Mondiale a Laguna Seca, e abbiamo in linea per parlarne, mi fa molto piacere fare questa conoscenza radiofonica, Alessia Cruciani, inviata della Gazzetta dello Sport. Ciao Alessia. Ciao, grazie, piacere mio. Ciao, leggevo quanto hai scritto in settimana, svelando in retroscena, che poi ormai è una notizia ufficialissima, del passaggio di Valentino Rossi alla Ducati. sì, ormai è una notizia. Sì. Aspetta solo l'annuncio ufficiale. Ma sentivo, non so che riscontri hai, c'è una vocina che mi dice che la Ducati siano abbastanza arrabbiati di questo repentino ritorno di Rossi in sella alla Yamaha in condizioni fisiche ancora certamente molto lontane dalla perfezione. No, non mi risulta siano arrabbiati, secondo me sono anche piuttosto tranquilli perché hanno visto che è tornato forte come prima, c'erano dei dubbi, sarà ancora forte, avrà paura, invece, io ho saputo, cioè, il suo primo incidente grave che ha avuto, per cui... Che sono arrabbiati quelli della Yamaha che è tornato in moto e quindi può contrastare Lorenzo. Sì, è un po' un'arma a doppio taglio questa, perché Valentino ovviamente non è contento se vincerà il mondiale Lorenzo e in cuor suo farà di tutto per non farglielo vincere. Però secondo me il suo rientro può sia avvantaggiarlo che ostacolarlo, nel senso che Valentino rischia anche di togliere, andando così forte, rischia anche di togliere punti agli inseguitori di Lorenzo e quindi di fatto agevolargli la corsa verso il titolo. Che sembra comunque abbastanza sicuro. Sì, secondo me non c'è. Lo spagnolo ha un bel margine. Però per la piacevolezza di sedersi davanti sul divano e guardare un gran premio, io voglio Valentino Rossi sempre in pista. Come 5 milioni e mezzo di italiani, Alessia. Sì. Abbiamo visto già domenica scorsa al Sachsenring come è stato in grado subito di mettere pepe agli avversari. Insomma, c'era Stoner che andava, non dico a tempo di crociera, ma insomma stava andando tranquillo appena. Si è avvicinato Valentino, hanno cominciato a girare con tempi, insomma, hanno cominciato a abbassare di diversi decimi il tempo sul giro, per cui lo dice Valentino, io sono uno stimolo per tutti i piloti, il loro obiettivo è starmi davanti, per cui appena mi avvicino io vanno tutti più forte. Il circo mediatico del MotoGP è l'80%, forse non l'80%, ma è Valentino Rossi, insomma. Da noi è il 90%. Poi, insomma, è talmente. Se devo trovare un emblema come lo è Maradona per il calcio, Valentino Rossi lo è per il motociclismo. Non c'è dubbio, tanto sì, che sono molto curioso di vedere i dati di ascolto. Domenica sera si corre in seconda serata, no? Su Canale 5, quindi hanno spostato alle 11. Insomma, questo per dire cosa vuole dire. La MotoGP e cosa vuol dire MotoGP con Valentino. Secondo te, Alessia, prima di salutarti, ce la farà Lorenzo a conquistare anche l'America? Anche Laguna Seca? Lui, Jorge, non è mai andato molto bene a Laguna Seca. Bisogna vedere, adesso non vuole rischiare. Lui sta anche un po' tamponando l'effetto psicologico del rientro di Valentino. Ovviamente sa che insomma, tra due non scorre buon sangue, anzi dallo scorso weekend nemmeno si salutano più. Per cui sta facendo un po' il calcolatore in questo momento. Non rischierà, cercherà ovviamente di vincere perché anche lui è un bel cannibale, è affamato di vittoria, cercherà di vincere. Però non rischierà troppo se... E magari buttando via tutti i punti, insomma, cercherà comunque di pensare alla classifica. Alla classifica e al mondiale. Certo, adesso il suo obiettivo è quello. Prima è più importante quello che stare davanti a Valentino. Non c'è dubbio, devo usare il cervello dopo aver usato per tanto tempo altre parti del corpo. Ma Rossi, cioè, Lorenzo è veramente un pilota. È cresciuto Lorenzo. È diventato uno da titolo mondiale, cosa che si verificherà. Sì. Grazie Alessia, un abbraccio. Grazie a voi, alla buon prossima. Lavoro. Mario, ti aspettiamo di nuovo. Oggi abbiamo fatto... Insomma, non siamo riusciti a rispondere nemmeno a una minima parte né di ascoltatori né di messaggeri SMS. Ma io mi trovo così bene qua che sarò costretto a ritornare qui. Quando torni dalle Maldive a novembre, parti domani, torni a novembre e poi ci vieni a trovare. Esatto. Grazie a Mario Boni, a Flavio Suardi, a redazione, a Roberto Scaltritti, regia. Ci sentiamo lunedì, anche se domenica, dalle 4:30 c'è Massimo Di Scienza che vi aspetta per lo speciale motori. Insomma, come avevamo detto, dopo il Gran Premio di Hockenheim e in prospettiva Laguna Seca, domenica alle 16:30. Noi ci sentiamo lunedì, come detto. Buona giornata.